memoria di lei che ancor ognor senza tregua m'insegue. Gran Dio, con la tua fiamma purifica quest'alma e spero d'ora posso il tuo chiaror e l'ombra che passa ancor nel profondo delle cose.